Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Buonasera e bentornata a questa nuova puntata di Might FM. Chi vi parla, come sempre, dagli studi di Radio Kairos presso il TPO a Bologna, è Claudia Mighty Mau. Per chi non ci conoscesse e fosse un po' incuriosito dalla nostra sigla, noi ogni anno scegliamo una versione diversa dell'inno alla gioia. Abbiamo iniziato nel 2010 con la versione elettronica pionieristica della colonna sonora di Arancia Meccanica e poi ci sbizzarriamo ogni anno a cercare delle versioni più o meno curiose, e quest'anno abbiamo scelto questa versione di un numero comico di Rowan Atkins, meglio conosciuto come Mr. Bean, ma noi siamo qui. Per parlare delle date dell'Express Festival. Noi qui a Bologna siamo piuttosto viziati, nel senso che siamo sempre stati abituati ad avere sotto casa, a casa, le nostre band preferite, fin dai tempi d'oro del Covo, locale storico che esiste dal 1980, e anche altri posti come l'Estragon. Alcuni non esistono più e alcuni invece sono nati da relativamente poco, e uno di questi luoghi è il Locomotive Club di Bologna. Come abbiamo scritto nella nostra presentazione, forse ai tempi sembrava una scommessa un po' folle quella di trasformare il teatrino del dopolavoro ferroviario in via Serlio in un locale di concerti. Dall'unione di tre menti, quella di Gabriele, di Michele e di Uda Giovanni, è nato il Locomotive Club, e probabilmente neanche loro avrebbero tanto pensato che avrebbero tagliato il traguardo dei 10 anni, ma quello in cui hanno sempre creduto è la grande qualità della proposta musicale, che non segue necessariamente le mode, ma anzi a volte intercetta le tendenze ancora prima che diventino di massa. E nell'ambito della loro promozione, proposta dei live, perché ovviamente è di musica live che eminentemente si parla, fin dal loro primo anno di esistenza hanno voluto enucleare, selezionare alcuni appuntamenti più di qualità, un po' come l'enoteche, anzi produzioni, produttori vinicoli fanno la speciale riserva, una serie di bottiglie pregiate, o come anche linee di alimenti fanno una selezione speciale di cibi un po' più qualitativamente pregiati, o come addirittura le grandi marche della moda fanno pochi pezzi molto ricercati e limitati delle loro collezioni. Non allo stesso modo il Locomotive ha deciso di creare questa rassegna di concerti col nome di Express. Perché se il Locomotive è la locomotiva, l'Express insomma c'è un po' più di spinta, un po' più di propulsione, e quindi appunto alcune date della stagione di ogni anno, ovviamente raggruppate cronologicamente in giorni più o meno successivi, vengono proposte con questo nome Express Festival. E quest'anno, per festeggiare il decennale del locale, ovviamente si sono scelti addirittura 10 concerti di alta qualità da proporre come Express Festival. Certo, per motivi anche di incastri tra i vari tour, eccetera, eccetera, non si potevano fare 10 giorni successivi, e infatti dopo una anticipazione a fine ottobre con Taiko, come spesso succede quando i concerti sono di grande, grande richiamo, il Locomotive affitta l'Estragon, che ha una capienza molto più ampia, lo sappiamo, e poi dopo il secondo appuntamento del 28 ottobre con i Cold Cut, ce ne sarebbe dovuto essere stato un terzo il 7 novembre con Carla dal Forno, ma è stato annullato, e quindi ci troviamo oggi, esattamente oggi, 9 novembre, giovedì, a parlare dei 7 appuntamenti che mancano, e sono praticamente quasi tutti successivi. a parte una piccola pausa di respiro, di requie, domenica 12, lunedì 13, martedì 14, oggi, domani, sabato e poi a riprendere mercoledì fino a sabato della prossima settimana, si susseguiranno questi appuntamenti di live veramente di grande qualità, grandi nomi, e quest'anno come non mai il Locomotive sta offrendo veramente un cartellone di live che uno dovrebbe vederseli tutti, di grandissimo livello. E come i più scaltri e intelligenti avranno capito, l'appuntamento di oggi vede il grande ritorno dei Lamb, che nel loro ultimo tour del 2015 non aveva toccato Bologna, con l'ultimo album in studio Backspace Unwind, a cui dedicammo una delle nostre monografie. Ma invece adesso ritornano con diverse date in territorio italiano per un tour celebratorio, ovvero per i 21 anni dal 1996, dal loro esordio con il loro primo album omonimo, che appunto conteneva questo capolavoro che stiamo ascoltando, ovvero Gore Key. Certo, non hanno bisogno di tante presentazioni, duo di Manchester, Lou Rhodes e Andy Barlow, emersi insomma nell'onda della drum and bass, della jungle, con anche molta influenza del jazz e poi vabbè della scena principale che nacque in quegli anni a Bristol, ovvero il trip hop di Massive Attack, di Tricky, eccetera. E saranno questa sera appunto al Locomotive per celebrare 21 anni dal loro debutto. Chissà se faranno più ancora del materiale originale, ma la cosa anche che vogliamo sottolineare noi nelle nostre trasmissioni è anche la presenza dei gruppi spalla, quelli che molte volte si trascurano perché uno arriva in ritardo e gliene importa fino a un certo punto, basta che non si perde insomma il gruppo principale. Invece, per esempio, noi che siamo un po' totalitarie, ci piace anche dare attenzione a chi è che diciamo scalda la folla e apre la serata. In questo caso sarà una ragazza che nel 96 è nata, cioè 21 anni, Giulia Fontana, proveniente dall'area del Lago di Garda, una ragazza accompagnata dalla sua chitarra e dal suo computer, che ha cominciato a fare musica, ad esibirsi addirittura già 2 anni fa, e che ha assunto come nome d'arte quello di Hon. Ho anche fatto una ricerca su come si pronunci questo nome o questa vocale, perché H con il cerchietto sopra, una vocale tipica delle lingue scandinave ma anche del dialetto bolognese, ho trovato. Quindi potrebbe pronunciarsi Hon o Hon o come ci pare, l'importante è ascoltare la musica, che è molto carina. Questo pezzo si chiama 1986, era stato mi ricordo se il primo o il secondo pezzo diffuso da questo EP intitolato The Children, l'altro pezzo era appunto The Children, in uscita il 1 dicembre, con 3 pezzi e qualche altro remix di 1986 e The Children. Pretty was to get. altro ne parleremo ancora la prossima settimana. Posso già anticipare che la prossima settimana la trasmissione sarà dedicata a un altro grosso evento che avrà sede a Milano, il Line Check Music Meeting, dove anche Hon parteciperà, e ascolteremo quindi un altro pezzo sempre tratto da questo EP di 8 tracce tra remix e pezzi originali. Insomma, ci piace vedere che c'è una leva anche di giovani ragazze come Bert, come Jungla, insomma, che fanno musica da sole e si propongono nella scena contemporanea musicale nostrana, ma come dicevo, qui le giornate si seguiranno in modo frenetico dopo la serata di stasera con Hon e Lamb. Domani ci saranno i Chic Chic Chic, ovvero punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, a sottolineare proprio l'anima esclamativa di questa band di Sacramento, poi stabilitasi a New York. E loro nel 96 sono proprio formati come band, guidati dal vivacissimo Nick Offer, che si esibisce quasi sempre in calzoncini corti, chissà se lo farà anche domani sera. L'esordio discografico risale al 2001 con l'album omonimo, e siamo arrivate al 2017 quando a maggio hanno pubblicato l'ultimo album, si chiama Shake the Shudder, di cui ci stiamo ascoltando il primo singolo, The One Two, ovvero The One a parole, seguito dal numero 2, come se fosse il sequel di un film. Si chiedesse l'origine di questo nome così curioso, Wikipedia ci dice che il nome della band era ispirato dai sottotitoli del film The Gods Must Be Crazy, in cui alcuni suoni schioccanti, clicking sounds del linguaggio sudafricano dei boscimani Khoisan, e venivano tradotti con questo punto esclamativo, e quindi hanno scelto questo nome. La più comune pronuncia di questi suoni è chic chic chic, ed è così che noi li abbiamo conosciuti appunto all'inizio di questo secolo e millennio. Ma ascolteremo altri pezzi nel corso di questa trasmissione, facciamo tutto il giro, poi ritorniamo da capo per almeno tre volte. Quindi abbiamo sentito il primo pezzo di chic chic chic e siamo teoricamente proiettati a Saturday Night, dove ci sarà un altro gruppo che io sono molto contenta di poter vedere per la prima volta. Keep on pulling, pulling, keep on pushing, pushing, keep on pulling. questo tono di voce, modo di cantare, quasi tutto sottovoce, quasi sussurrato, che è diventato proprio il marchio di fabbrica dei Fujiya e Miyagi, che ho chiesto a un parlante giapponese qual era la pronuncia giusta, anche se loro sono di Brighton, gruppo nato nel 2000. Che insomma, per quello che mi riguarda e anche insomma tutte più o meno le persone che conosco, sono esplosi con l'album del 2008 Light Bulbs. Chi è che non si ricorda e non ha ballato più o meno un milione di volte Knickerbocker? Il pezzo che stiamo ascoltando è dell'ultimo album, sempre del 2017, perché qui a Might FM noi facciamo sempre sentire le ultimissime produzioni, perché se vengono a suonare ovviamente stanno portando in promozione il loro ultimo lavoro, e anche per sentire insomma musicalmente a che punto sono. Diciamo che i Fujiya e Miyagi sono più o meno sempre molto coerenti nel loro stile. Questo genere è sempre un po' dancing, funky, elettronico. E il pezzo che stiamo ascoltando è uno dei singoli, credo il primo tratto da questo album, si chiama Serotonin Rushes. Che in questo caso qualcuno si chiedesse da dove viene questo nome curioso, la prima parte del nome Fujiya è la marca di piatti, di record players, mentre il secondo nome è un omaggio a Mr. Miyagi di Karate Kid. Metti la cera, togli la cera. I can get you out of my system. Serotonin Rushes, il primo pezzo che ascolteremo in questa trasmissione dedicato ai Fujiya e Miyagi. E diciamo che il tono cambia completamente. Dopo la pausa del weekend ricominciamo la settimana, ricominciano gli appuntamenti mercoledì 15 novembre, una data che noi aspettiamo da mesi, e chi ci conosce, chi conosce la trasmissione lo sa. Potevamo evitare di mettere un pezzo della Zora Predona di Zora Jesus dopo aver fatto a fine settembre già la prima puntata della nostra nuova stagione dedicata al suo nuovo e bellissimo album Okovi? Sì, potevamo evitarlo, ma invece no. Nika Roza Danilova, abbiamo parlato per quasi due ore di lei, abbiamo raccontato tutta la sua carriera fin dai primissimi esordi, ha fatto un sacco di cose e ha ancora tipo 28-29 anni. Io l'ho vista una volta al Covo, sei anni fa, un'altra volta, non riesco a ricordarmi dove, ma sono molto molto felice di poterla vedere in un ambiente raccolto e familiare come quello del Locomotive per questo album, che veramente è una maturità enorme. Il pezzo che stiamo ascoltando, tratto da Covi, in realtà sono due, è uno dei nostri soliti mix casalinghi. Stiamo ascoltando Soak, a cui seguirà Veka. Come abbiamo detto in trasmissione, questo pezzo, uno dei primi che è stato diffuso dall'album uscito l'8 settembre, è il racconto di una donna vittima di un serial killer che la vuole uccidere, la vuole affogare, annegare, ma lei decide di prendere in mano le sue sorti e di non farsi uccidere, ma di decidere lei di quasi donarsi alla morte, in cui questo serial killer in realtà è una persona che la assiste nel suo suicidio. Dopo il primo pezzo, Exhumed, poi c'è stato Soak, poi c'è stato Siphon, a volte sono stati prima diffusi le versioni audio e poi i veri e propri video. Infatti di Siphon lo stesso Locomotive ha postato nell'evento il nuovo video, che non ho ancora guardato. Ma appunto, per chi amasse Zola, per chi volesse andarla a vedere, per chi non avesse ascoltato il disco, per chi volesse avere un sottofondo di quasi due ore mentre fa le pulizie, c'è la nostra puntata speciale dedicata a lei. E abbiamo deciso di affiancare un po' le due anime, perché dal pezzo un po' più pieno di pathos e più drammatico abbiamo voluto mettere uno dei pezzi, perché ce ne sono diversi che invece sono dei veri e propri anthem che possono far ballare e saltare. Dicevamo anche del Coté un po' più agitato, che tra le tante etichette che sono state affibbiate è anche quello di Witch Disco, un po' appunto questa caratteristica un po' da stregona, un po' cupa, un po' dark. Ma la cosa che raddoppia il piacere di questa data, ricordiamo mercoledì 15 novembre al Locomotive, è che appunto ad aprire la serata sarà Devon Welsh, quello che io chiamo tipo Piemonte Lombardo, ovvero l'ex voce inconfondibile per me dei Magical Clouds. If you get it wrong, just try again for me. If I play along, then we won't be alone. Cioè, io sento la sua voce e piango. Dopo essersi separato dal suo partner musicale Matthew Otto, Devon, come faceva prima agli inizi quando stava con Grimes e come sta continuando adesso, fa la sua musica. Continua con il suo stile, che sono proprio si rivolge sempre a qualcuno, direttamente a qualcuno, come delle conversazioni, delle lettere spassionate, sempre a tema di amicizia, bisogno, desiderio, amore, pezzi confessionali si direbbe, e sono stati racchiusi in un disco uscito nel maggio dell'anno scorso, che si chiama Down the Mountain, di cui ci stiamo ascoltando il primo pezzo, Don't Let Me Hide. I won't turn away. I am unhappy. And you are too. We're not perfect. And I need you. Diciamo che non sono cambiati né tanto i contenuti né il musical backdrop, ovvero queste strutture musicali molto semplici, molto minimali. E in questo caso è lui che si fa carico anche della parte musicale, in quanto sia voce e tutti gli strumenti sono suonati da lui. I am unhappy, and you are too. We're not perfect, and I need you. La proposta musicale del Locomotive c'è sempre stata anche la parte dedicata ai grandi padri della scena musicale, che magari non sono conosciuti tanto dai giovani. Ed è così che giovedì 16 novembre salirà sul palco del Locomotive una vera leggenda. Ovvero Arto Lindsay. Proprio un anno fa l'abbiamo anche sentito qui a Might FM per la puntata dedicata, una delle due puntate dedicata al Club to Club, in quanto l'anno scorso appunto ha partecipato al Club to Club di Torino, e che invece quest'anno, dopo 13 anni, ha pubblicato un nuovo disco che si chiama Cuidado Madame, ovvero Attenzione Madame. Come chi insomma lo conosce lo sa, lui ha passato l'infanzia con la famiglia in Brasile perché i genitori erano missionari, quindi ha vissuto il Brasile proprio negli anni in cui è esploso il movimento cosiddetto tropicale, ovvero Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil. E poi invece da più grande a New York ha dato vita, insomma era parte del movimento, la cosiddetta No Wave, con gruppi come DNA. Ma non si è fermato lì, perché magari qualcuno non conosce il nome, però è più familiare con i nomi come The Lawn Lizards o i Golden Palominos, fino agli Ambitious Lovers, e poi anche una lunga carriera da solo. Ed è appunto dall'ultimo album, Cuidado Madame, che ci aspettiamo che presenti sul palco del Locomotive, che ci stiamo ascoltando, Tangles. La sua musica negli ultimi anni contiene sempre dei pezzi in lingua brasiliana, infatti ne ascolteremo anche uno più tardi, altri due pezzi tratti da questo album in attesa del concerto. Io personalmente non ci andrò, ma immagino che ci sarà un casino di gente. E siamo arrivati alla data di venerdì 17 novembre, dove saremo tutti, spero, per il grande ritorno anche quest'anno, un altro grande ritorno, quello dei Lali Puna, ma sempre ad aprire le danze sul palco. Cioè ci sarà un duo fiorentino che si chiama Maremma, ho sbagliato, si chiamano Manitoba, ovvero Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini, e il primo pezzo in anticipo del loro futuro album si chiama Brasilia, appunto per collegarci con Arthur Lindsay, ed eccolo qua. Insomma, anche stamattina ho fatto delle lunghe conversazioni in chat, tra virgolette, con Filippo dei Manitoba, perché ovviamente per preparare la trasmissione io sono andata a cercare molte informazioni, cercare un pezzo da passare, e sono andata sulla loro fanpage. E ovviamente mi sono ricordata di quando, infatti lo dicemmo già nel 2010 nella puntata dedicata a Caribou, di come Danny Snaith avesse iniziato la sua carriera come Manitoba, ma che fosse stato minacciato di azione legale da Dick Manitoba, un rocker della scena newyorkese punk hardcore già conosciuto, con la faccia brutta brutta cattivissimo, che praticamente ha minacciato di fargli causa, e lui per evitare grane ha deciso di chiamare il suo progetto Caribou. Per cui se io vedo un altro gruppo di, non so, ventenni e qualcosa che arrivano adesso, si chiamano Manitoba, dico, beh vabbè. E poi tra l'altro vedo che nella colonna destra della loro pagina Facebook Richard Manitoba ha lasciato un messaggio che diceva a lettere maiuscole Fagot. Perché poi tra l'altro lui, che cantava nel suo gruppo The Dictators, adesso ancora ha cambiato nome e si chiamano Manitoba New York City. Quindi forse si è messo l'anima in pace, insomma distinguendosi come origine geografica, per non farsi confondere con eventuali altri gruppi che scelgono questo nome che gli piace tantissimo. Io dico anche Caribou, voglio dire, tu sei dell'Ontario e decidi di chiamarti Manitoba, che è la provincia, lo stato federale del Canada confinante, no? Cioè come un gruppo di Bologna che si chiama Veneto per esempio. Ma vabbè, non vogliamo entrare nelle delle decisioni artistiche e creative delle band. Fatto sta che sto Manitoba è un nome molto quotato. Ma dicevamo, loro suonano prima della Lipuna, che sono ritornati quest'anno dopo 7 anni, a parte un singolo, 2 pezzi con un altro gruppo, Trampoline, 2014, insomma dopo l'ultimo album Our Inventions del 2010, sono ritornati quest'anno con Two Windows, di cui questo è il pezzo omonimo di apertura. Gruppo seminale di quel movimento che è stato definito Inditronica e che ci ha accompagnato a cavallo di questo secolo e millennio, rappresentato soprattutto dalla More Music, per cui hanno sempre registrato fin dal loro esordio, che noi abbiamo conosciuti proprio dall'esordio del primo disco Tridecoder del 99. E che ci sono stati degli anni che veramente li abbiamo amati alla follia, che sono venuti spesso a suonare a Bologna, ma anche all'Anabi, mi ricordo, e noi c'eravamo sempre. Dopo questi anni di assenza, una defezione importante, quella insomma del fondatore, compagno, fidanzato, chissà se stanno ancora insieme, di Valérie Trebeliar, lei cantante e tastierista, ma parliamo appunto di Marcus Acker, che è chitarrista e voce dei Nothwist, che invece adesso non fa più parte di questo progetto, ma sono rimasti invece i vecchi membri. E la cosa che spicca in questo nuovo lavoro è che accanto al loro stile riconoscibilissimo, come potremmo anche sentire da un secondo pezzo, questo stesso suono è familiare ma anche molto contemporaneo, molto attualizzato. Infatti sono dei tocchi techno, insomma niente male, un po' più a now. E finisce il primo pezzo di quelli che ascolteremo della Lipuna, e si finisce con sabato 18 novembre. Io personalmente, insomma, bisogna anche fare delle scelte nella vita, no? Io andrò personalmente a Milano a vedere i Maunkimbi, a cui appunto abbiamo dedicato un'altra nostra puntatona, ma a Locomotive mi raccomando, andate subito di corsa a vedere i Liars. Nuovo album anche per loro, o dovrei dire per lui, And Then There Were One, ovvero Angus Andrew, ormai è rimasto solo, e in questo album TFCF, che sta per Theme from Crime Fountain, un po' elabora il lutto di essere stato abbandonato il suo partner creativo di tanti anni, e l'album si apre con questa appunto ballata molto triste che si chiama The Grand Delusional. With an arm. dei gruppi più eclettici degli ultimi 15 anni, tra rock sperimentale, dance punk, noise rock, elettronica, si sono distinti per aver fatto praticamente un disco diverso ogni volta, di genere diverso. Fin dall'inizio, nel 2000, si sono incontrati a Los Angeles, Angus Andrew, in realtà australiano, e insieme a Aaron Enfield, Ron Alberson e Pat Necker forma la band. Ed esordiscono con They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top. Noi l'abbiamo passata in trasmissione in realtà solo una volta, ed è stato 5 anni fa, perché l'abbiamo visti al Festival Pitchfork di Parigi, ed era il periodo, l'album che avevano pubblicato era Wish You, ovvero W-I-X-I-V, però dopo ce ne sono stati altri e prima anche di più, come i cambiamenti di line up, in quanto per diversi anni poi sono presentati come trio insieme a Julian Gross, poi sono rimasti un duo insieme appunto al partner creativo principale, ovvero Aaron Enfield, che quest'anno ha deciso di lasciare il gruppo. Si sono separati in modo amichevole, però per Angus è stato assolutamente un lutto. E scusate, ma adesso c'è una super anticipazione, perché dei Liars continueremo a parlare, ma appunto abbiamo fatto tutto il giro. E vabbè, a parte la serata di oggi, insomma, che abbiamo onorato con Gorecki, il pezzo diciamo principale dell'esordio dei Lamb per questo tour di 21 anni, quindi adesso la serata è sold out, che dentro e dentro, che fuori e fuori, come si suol dire. Invece domani vedranno esibirsi dopo vedranno esibirsi prima di Chic gli Universal Sex Arena. Sestetto esplosivo proveniente dal nord-est, avevano fatto un album nel 2014, ma adesso tra poco ne uscirà un altro, e proprio oggi è stato diffuso, tipo all'ora di pranzo, io ho fatto carte false per averlo, grazie a Nora di Flash Agency, questo primo pezzo diffuso in anticipazione dell'album che sarà, che si chiama Abdita, mentre questo pezzo, il primo pezzo, si chiama Secret People. E ce li ricordiamo proprio sul palco del TPO per le serate Threesome a presentare il loro album di allora, Romanticism, con il cantante cappello lungo, torso nudo, molto Iggy Pop. E saranno quindi gli USA, Universal Sex Arena, ad aprire le danze domani sera prima dei Chic Chic Chic. E infatti diciamo che idealmente finisce il concerto del gruppo Spalla, come si dice, e arrivano loro, dicevamo, dall'album di quest'anno Shake the Shudder. Questo è il secondo video e singolo, si chiama Dancing is the Best Revenge. Vi consiglio di andare a vedere il video in cui Nick Offer viene truccato e vestito come una drag queen e si esibisce insieme a tante drag queen più o meno latine per questo pezzo, che appunto da ballare è la migliore vendetta. Formazione attuale, immarcescibile Nick Offer, poi Mario Andreoni, Dan Gorman, Paul Quattrone e Raphael Cohen. Sono esplosi negli anni in cui c'era tutto questo movimento newyorkese guidato dalla DFA, dagli LCD Sound System, poi altri gruppi, ricordiamo, con Nostalgia, Outkast. Insomma, era l'epoca d'oro del punk funk. Diciamo che il grande successo, almeno dalle nostre parti, è arrivato poi col secondo disco del 2004, Laura Now, con pezzi come Hello Is This Thing On e Me and Giuliani Down by the Schoolyard e i relativi remix. Mi sembra strano che non venga nominata quella che è un membro a tutti gli effetti della formazione, perché se in passato come diciamo voce femminile per i live c'era Shannon Faulkner, che noi conosciamo come voce dell'Asylum, adesso c'è un altro musicista, si chiama Lia, che presenta tutta la sua bellezza anche nei video, e molti dei pezzi di questo ultimo disco, Shake the Shudder, riportano soprattutto la voce femminile, e quindi insomma ci sembra strano che non le venga dato riconoscimento, ma noi invece lo facciamo. E dopo aver sentito questo secondo pezzo, Chic Chic Chic, ritorniamo ai Fujii e Miyagi con un altro pezzo, sempre singolo tratto dal loro ultimo album. È strano come una band, dopo aver fatto diversi album, a un certo punto decida uno di farne uno con nessun titolo, fare un album omonimo. A volte succede che sia il primo disco, o a volte, che ne so, viene usato il nome del gruppo quasi a sottolineare che magari quel disco rappresenta l'essenza vera del gruppo, o forse non c'hanno voglia di inventarsene, pensarne uno. I'll know when I kiss you, I'll know. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. non ho detto forse che il pezzo si chiama Solitaire. Anche loro nel corso dei loro ormai più di 15 anni di esistenza e nel corso di 6 album hanno avuto dei cambi di line up, ma quello che non cambia mai appunto è la voce che rende i pezzi di Fuglia. Già io ho problemi con la GL e questo gruppo mi mette a dura prova. Fuglia e Miyagi, la voce non cambia mai, è quella di David Best insieme a un altro membro fondatore, Steve Lewis. Infatti spesso sono rappresentate solo loro due, qualcun altro se n'è andato, poi ci sono appunto altri due membri che in questi ultimi 2-3 anni li accompagnano, Ed Cheevers e Ben Adamo. Come Mighty FM è anche un programma didattico, quello che scopriamo pensiamo sia il caso di condividerlo con i nostri ascoltatori. Prima ho detto, chi è che non ha mai sentito e ha ballato Knickerbocker, Vanilla, Strawberry, Knickerbocker Glory, I Saw the Ghost? Io capivo tipo Lina Severoni, e sono andata a cercare, è Lena, quindi Lina Zavaroni, origini italianissime ma scozzese, era una cantante e un personaggio televisivo che ha iniziato la sua carriera da piccola, proprio bambina, adolescente, vita sfortunata, morta nel 99 per problemi di depressione, trattamenti psichiatrici eccetera. Poi è arrivata una polmonite e appunto Lina Zavaroni è diventata un fantasma che ha un po' ossessionato il cantante dei Fuji Miyagi, e adesso ovviamente mi fa venire la curiosità di andarmi a ascoltare la produzione musicale di Lina Zavaroni. Ma siamo tornati adesso Zola Jesus, non la facciamo più sentire, ma diamo uno spazio meritatissimo a Devon Welsh, dicevamo ex voce dei Magical Clouds, a cui Mighty FM dedicò una sua puntata monografica per il secondo meraviglioso album Are You Alone. Dicevamo di come il duo non esista più, la partnership con Matthew Otto, ma la produzione di Devon Welsh continua. Io da super fan gli ho scritto dal suo Bandcamp e lui mi ha risposto dicendo daje, praticamente della serie, guarda che bello che viene a Bologna, e lui ha risposto sì, sono tanto contento, sì, conosciamoci, ciao, che bello. E questo è un altro pezzo, dicevo, dall'album dell'anno scorso, Down the Mountain, si chiama What I Meant, e l'ho voluta scegliere perché c'ha questa melodia della voce che mi ricorda vagamente Making Plans for Nigel degli XTC. Thank you. leggiamo appunto dalla sua pagina Bandcamp, da cui lui diffonde la sua musica, che questo album Down the Mountain è una piccola collezione di canzoni che sono state scritte in momenti diversi nel corso degli ultimi 2 anni, quindi parliamo 14-16. Alcune sono state scritte durante lo stesso periodo in cui è stato composto Are You Alone, ma non sono finite nell'album per un motivo o per un altro. Altre invece sono state scritte e registrate per divertimento nella scorsa estate. Voglio pubblicare tutte queste canzoni perché mi piacciono un sacco, e siccome sto lavorando su della nuova musica, la mia attenzione si concentrerà inevitabilmente su questa nuova musica e queste canzoni verranno dimenticate, e le canzoni dimenticate sono una cosa triste. E lui di tristezza se ne intende. E quindi dice: questo non è un album, e non è un album di musica nuova, ma è una collezione, un insieme di canzoni vecchie che mi piacciono e che sento meritino di essere pubblicate. E poi dice: la registrazione può sembrare un po', insomma, poco professionale, ma io l'ho mixato e masterizzato da solo proprio mentre imparavo a farlo. Siamo tornati a giovedì 16 con Arto Linzi, abbiamo detto di come abbia pubblicato quest'anno un pezzo che si chiama Cuidado Madame, e nei suoi dischi prima o poi c'è sempre qualche pezzo in non si può dire in lingua brasiliana, Português do Brasil. In quanto non solo appunto il Brasile è stato il posto in cui è cresciuto, anche un po' la scena musicale che l'ha ispirato, diciamo, quello del movimento tropicale della bossa nova, a cui lui poi applica, sono dei suoni appunto new wave ed elettronici, e soprattutto lo fa con l'aiuto di grandissimi musicisti di cui si contorna. Infatti questo pezzo abbiamo cercato, io e Ana, di capirne il significato del titolo, Vau Queimar U Botando Pra Dançar. Scuro il mare, scuro il cielo, nessuno ci separerà. Metafore stellari, astronomiche, cosmiche. Le stelle che bruciano accumulando pianeti e buttando pra dançar, questo verso, buttar, che non si capisce bene, ma insomma forse queste stelle che sollecitano, muovono alla danza. Dicevamo, come appunto dall'inizio della scena new wave newyorkese, poi si è passato a suonare con i Lounge Lizards e Golden Palominos, con una modalità che appunto voleva rompere, insomma, le distinzioni classiche tra musica rock, pop, l'improvvisazione, il jazz, l'avanguardia, infatti in collaborazione con John Zorn. Ma passiamo, sentiremo ancora un altro pezzo di Arthur Lindsay. Siamo tornati alla Lipuna, e questo forse per chi li conosce è uno dei pezzi un po' più classici del loro suono, con cui abbiamo imparato ad amarli tanti tanti anni fa. Il secondo pezzo che ascoltiamo dal loro ritorno, Two Windows, si chiama Her Daily Black. Dimostrazione del grande amore che ha avuto l'Italia per i Lalipuna, non so quanto fossero popolari in Germania, ma in Italia, insomma, perché ascoltava musica alternativa, erano molto popolari, lo dimostra il fatto che la loro scheda su Wikipedia, l'unica che abbia delle informazioni vere e proprie, sia quella in italiano, cioè anche quella in tedesco è assolutamente scarna, quella in inglese ancora meno. E quindi, dopo averli conosciuti ed amati con Tridecoder, c'è stata, diciamo, la consacrazione con, per noi, nei nostri cuori, con Scary World Theory, soprattutto con un pezzo come Nincompoop, By Pat. Quando l'indie era indie, vero Olivia? Noi sicuramente staremo in prima fila. Venerdì 17 novembre. E mentre finisce Her Daily Black, ritorniamo alla serata dei Liars, perché dicevamo come il Locomotive, per questa selezione di concerti veramente pregiata e prelibata, che viene presentata sotto l'insegna di Express Festivals, grazie anche al patrocinio della Regione Emilia-Romagna, mentre, diciamo, tutta l'attività concertistica dei Locomotive viene anche, diciamo, aiutata dal Comune di Bologna, dal quartiere Navile. Queste cose sono importanti perché molte persone magari, insomma, le danno per scontate, ma è questa veramente stata la scommessa vinta del Locomotive, andare avanti per 10 anni con una proposta veramente sempre più alta e sempre più densa, intensa. Dicevamo di come ci sia un'attenzione anche ai cosiddetti gruppi spalla, quelli che uno se li evita, oppure diceva vabbè, tanto non mi perdo niente. E invece a me dispiace, siccome appunto ho detto che non ci sarò, mi dispiace perdermi invece il gruppo in apertura, i Liars. Si tratta di un duo di Glasgow che sembrano matti come dei cavalli. Non so chi sia chi, perché si trovano solo le iniziali S. Rodden e L. Cook. L. Cook mi sembra più un nome femminile. Un lui e una lei si chiamano Happy Meals e vengono da Glasgow. Oh, questo pezzo è stato pubblicato sul loro SoundCloud 20 giorni fa, il 17 ottobre 2017, si chiama Tomorrow Could Be Heaven. Nella descrizione di ciò che fanno c'è scritto Utopian Disco and Meditation Module. Cioè, già lo stile e la grafica del loro sito è tutto un programma, www.happy-meals.com. L'album, anzi no, sì, un album di qualche anno fa, si chiama Apero, poi l'ultima pubblicazione prima di questo pezzo sono fondamentalmente dei 12 pollici. E l'ultimo, prima di questo appunto, ultimo pezzo pubblicato pochi giorni fa, si chiama Full Ashram Devotional Ceremony volumi 4-5, perché appunto ce ne sono di precedenti. Nel 2016 il volume è 1, però quelli in mezzo probabilmente si sono persi in un altro piano astrale che loro probabilmente regolarmente visitano. E sul sito c'è scritto Welcome to the Happy Meals web portal established 2015. Happy Meals sono S. Rod e Neil Cook, artisti e musicisti di Glasgow, Scotland, fondatori e residenti del Full Ashram Celestial Garden Luxury Studio, Pop Elevation e Astral Transportations, insieme ai Liars. Mi sembra veramente un'accoppiata pazzesca, nel senso, de matti. E dopo gli Happy Meals appunto arrivano i Liars, che ovviamente adesso Angus Andrew è accompagnato da altri musicisti, personale dal vivo, ma dicevamo come appunto del gruppo sia rimasto solo lui per presentare questo album TFCF, di cui appunto adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, Staring at Zero. Why can't you shoot me through my heart? Why can't you... Che sembra un po' il modo di cantare anche l'ultimo Joe Mount Metronomy. TFCF, sempre edito dalla Mute Records, come sono quasi tutti a parte il primo, i loro dischi. Dicevamo di come il loro stile sia cambiato quasi interamente da un album all'altro, e questo ultimo album è ancora diverso dagli altri, ma quindi riconoscibile come dei Liars, insomma, allo stesso tempo. dopo Wish You c'era stato Mess, che già appunto critici dicono che già insomma mostrava un po' la corda anche questa partnership creativa, mentre questo disco proprio è l'elaborazione del lutto. Angus torna in Australia, parla appunto, sfoga la sua solitudine e il suo dolore vissuto in isolamento e a parole sue appunto dice di come lui si sentisse sposato a Ron Enfield creativamente e adesso che se n'è andato io sono, mi trovo da solo nel mio vestito da sposa. Just too late. Better off skipping stones in the river. Be thankful to get 7 or 8. If you only get 5 or 6, just shrug, 'cause that's how it is sometimes. And they all sink to the bottom, so quickly forgotten, and it doesn't matter one tiny bit. With your thoughts under streetlights, or maybe just moonlit, it wouldn't matter, even if it did. As you ponder the small things, then ponder them bigger, there's nothing to do but throw tiny stones in a big river. Well, it's a long walk home. E siamo tornati a Chic Chic Chic, che mi pare, insomma, abbiano preso una deriva sempre più dance, funky, un po' Chip e un po' Hercules Love Affair. E dicevamo di come avessero pubblicato quest'anno un ultimo album, Shake the Shudder, ma non solo, perché magari qualcuno non lo sa, ma questo pezzo magari non lo conosce, dice qua, questo pezzo non è sul disco. Infatti non c'è nel disco ultimo, ma è nella ultimissimissima pubblicazione, che in realtà non è una vera e propria pubblicazione, in quanto si tratta di un EP in 12 pollici solo in vinile, contenente 6 pezzi. Questo è l'ultimo pezzo del disco, si chiama The Long Walk, ma ne esiste anche un video. Il primo pezzo dell'EP è Kim Thurston and Me, ovvero Sonic Youth, magari è stato lui la causa, no, sappiamo che purtroppo non è stato lui la causa della separazione tra Kim Gordon e Thurston Moore, ma dicevo, questo EP in vinile è un tour EP, ovvero edizione limitata in vendita solo ai concerti, quindi domani sera, se non se lo sono già finiti, sarà in vendita. E questo EP, dopo Shake the Shudder, si chiama Shake the Shut Up, un po' un gioco di parole come Shut the Fuck Up, Shake the Shut Up, immagino. Ed è in questo modo che si conclude lo spazio dedicato a Chic Chic Chic. Domani sera, già l'altro ieri, perché il Locomotive è molto bravo in questo, comunica sempre la velocità con cui stanno consumando i biglietti. Avvisano sempre e 2 giorni fa hanno scritto metà sala è andata, quindi prevendita consigliata, perché dopo c'è sempre questa scena penosa che dopo che viene dichiarato il prevedibile sold out, perché non dire che non te l'hanno detto, la gente che si dispera e si strappa i capelli per cercare dei biglietti. Ma prima mi sono sbagliato, ho detto che Serotonin Rushes era il primo singolo, no, il primo singolo che poi è contenuto nel disco, già pubblicato nel 2016, era Outstripping the Speed of Light, questo, ovviamente, dei Fujiya e Miyagi. in realtà è come se questo disco fosse una raccolta di 3 EP, perché appunto al 2016 un po' tutti questi pezzi non erano come singolo, ma Se Rotano in Rushes era in un EP1, questa Outstripping era in EP2 e poi sono stati anche pubblicati separatamente come singoli, e poi alla fine anche Solitaire, e poi alla fine raccolti in questo album omonimo. Che poi veramente, ma chi se ne frega della data di pubblicazione, è che a volte non riesco a scappare da me stessa. Questo è un bel pezzo, bello tirato, bello quasi rocchettone. E dicevo, sabato sera li vedremo sul palco del Locomotive per questa selezione di 10 concerti per celebrare 10 anni sotto il nome di Express Festival, come ogni anno dall'esistenza, dalla sua esistenza il Locomotive ha fatto di enucleare, selezionare dei concerti del meglio, insomma, la creme della creme sotto quest'altro nome. Infatti anche per chi sta a Bologna e frequenta il Locomotive, magari questa distinzione io per prima non è stata molto mai molto chiara, perché praticamente tutta la proposta del Locomotive è sempre molto molto appetibile. Siamo tornati a Devon Welsh. Questo pezzo non è contenuto in Down the Mountain, è stato pubblicato, diffuso da solo a sé stante, ma poco dopo, nel settembre 2016, quindi noi aspettiamo questa nuova musica su cui stava lavorando. Questo pezzo si chiama Go Go e paragonato agli altri è vivacissimo. Oh no, oh no. Un pezzo con un testo abbastanza corto, ma cui God viene nominato 3 volte. God, God, God, go, go. E di questo pezzo Devon dice: questa è una canzone che ho fatto l'anno scorso, quindi 2015, è un tributo ad un caro amico barra A, ma anche una specie di pagina di diario. E siamo molto contente che Zola Jesus, Zola Predona, abbia scelto per il suo tour europeo Devon Welsh. Ricordiamo, forse è il concerto che emotivamente aspettiamo con più trepidazione. Mercoledì 15 novembre abbiamo dedicato la nostra puntatona ad Okovi, l'album che sta portando in tour Zola, ovvero Nika o Nicole. Ed è giunta finalmente l'ora, fra 6 giorni. e torniamo al 16 novembre, ultimo giro, non vi preoccupate, stiamo finendo, ma volevamo insomma dare un po' più spazio che non fosse appunto una semplice canzone, anche perché in un disco insomma i tenori, i timbri, i suoni, le emozioni sono varie, e questo pezzo di Arthur Lindsay è ancora diverso, unendo questi rumori di statica elettronici ad una chitarra. Così minimale, sempre tratto da Qui da Du Madame, Uncrossed. Lunghissima carriera quella di Arthur Lindsay, fin dal debutto con i DNA alla fine degli anni 70, poi abbiamo elencato i vari gruppi fino a che nella metà degli anni 90 ha cominciato a pubblicare lavori a proprio nome e a rivolgersi sempre di più ai suoni insomma della sua giovinezza, insomma ai suoni brasiliani, alle sue origini brasiliane, cui paese dove è cresciuto, e quindi anche a cantare in portoghese do Brasil più frequentemente, unendo appunto elementi di elettronica e new wave con elementi appunto più classici della bossa nova, e producendo anche dischi per musicisti di questa scena come Caetano Veloso, che abbiamo visto a un Primavera Sound a Porto, Marisa Monte, ma anche producendo per David Byrne, Laurie Anderson, fino ai Cibo Matto, che fine hanno fatto? Scusa, non volevo fare la rima, scusate. Animal Collective, eccetera. E ultimo pezzo che ascoltiamo invece della Lipuna, e che è stato anche pubblicato come secondo singolo dopo il primo Deep Dream, che, a cui abbiamo preferito altri pezzi, è The Bucket. Magari a un orecchio attento lo riconoscerà, io invece no, perché diciamo che musicalmente non mi appartengono tantissimo, non li ho frequentati tantissimo, perché è una cover niente po' di meno che dei Kings of Leon. Cioè, ovviamente io la sento così e mi sembra una canzone della Lipuna, però appunto poi vado a sentirmi l'originale, che comunque nel retro del mio cervelletto mi è familiare, e lo riconosco come appunto The Bucket, Kings of Leon, negli anni in cui veramente sono esplosi, mi li ricordo anche a Benny Cassim, era il 2004, l'album era Haha Shake Heartbreak. to Windows della Lipuna, pubblicato l'8 settembre, lo stesso giorno di O Covid Isola Jesus, è anticipata appunto da due singoli nell'estate, questo secondo The Bucket. E il sito della Lipuna dice che Valerie ama l'originale, perché ha addirittura il 10 pollici di questo disco, quindi cover dei Kings of Leon. E finiamo con uno dei pezzi più pazzi di TFCF, The Liars, ovvero No Tree, No Branch. Branch, definito da Pitchfork una scorribanda caleidoscopica folk punk, o meglio una scorribanda folk punk caleidoscopica, tratto da questo album dove, dicevamo, a parole sue proprio lui vive questo abbandono. Infatti c'è queste foto veramente abbastanza creepy, inquietanti, di lui in abito da sposa. Sempre appunto a parole sue che si è, insomma, dato in pasto teoricamente per quelle sessioni molto popolari su Reddit, ovvero AMA, Ask Me Anything, ha detto appunto che questo disco è fondamentalmente il tema musicale, la colonna sonora del deterioramento della sua relazione creativa con Aaron Enfield, e quindi lui si è andato a rifugiare in un'isola al largo di Sydney, che era raggiungibile solo in barca, ma dai. Ed è con i Liars che si conclude questa stringa intensissima di concerti. Abbiamo detto 10 concerti per 10 anni Express Festival, dopo Taiko, Cold Cut, Carla Dal Forno, che invece ha dato forfè, da oggi fino a sabato Lamb Chick Chick Chick, Fujii Miyagi, poi si riprende dopo una piccola pausa mercoledì, giovedì, venerdì e sabato con Zola Jesus, Arto Linse, Lalipuna e Liars. Buon ascolto su Radio Kairos, noi ci saremo a 4 concerti di questi, noi ci saremo, e buon ascolto sempre con Mighty FM e Claudia Mighty Mau, e grazie davvero al Locomotive che ci porta in casa tutta questa bella musica.